Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nelle onde del mare e dell'oceano c'è un'immensa quantità di energia, un fatto ben noto che da tempo attira l'interesse di ricercatori e progettisti quali sperano di riuscire a sfruttarla, cosa che però è più facile a dirsi che a farsi. Le difficoltà di fondo sono almeno due. La prima è che il moto ondoso ha caratteristiche fortemente variabili e quindi servono delle soluzioni, diciamo così, molto flessibili. La seconda invece è legata all'aggressività dell'ambiente marino, il quale, quando il mare è calmo, si limita ad essere fortemente corrosivo e quando invece in burrasca può essere letteralmente distruttivo. Risultato, soluzioni commerciali affermate, come per esempio ce ne sono nel settore eolico, oggi non se ne vede nemmeno una. Speriamo allora che l'idea messa a punto dall'incubatore del Politecnico di Torino, denominata ISWEC, all'interno di Way4Energy, che è appunto una startup, sia la volta buona. Buonasera Paolo Guerra, socio e project manager di Way4Energy. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, senta, ci descriva subito il funzionamento, il principio di funzionamento di questa vostra tecnologia che si chiama ISWEC, che è una delle tante soluzioni che si stanno tentando appunto per convertire questa energia del moto ondoso in altre forme di energia più pratiche. Allora, il principio di funzionamento si basa sul principio giroscopico. Per semplificare molto, possiamo prendere in considerazione una trottola. Quando la facciamo girare, lei cerca di rimanere con l'asse di rotazione perfettamente verticale. Quando la tocchiamo, quindi cerchiamo di farla inclinare, lei cerca di ritornare in asse. Si oppone comunque alla forza che noi esercitiamo con un'altra forza, no? Esatto. Noi usiamo questo principio, la nostra trottola all'interno dello scafo e il nostro device che produrrà energia è un giroscopio molto grosso. La forzante che cerca di farlo inclinare sono le onde del mare, sì, che trasferiscono la loro energia attraverso lo scafo. Noi poi riusciamo a recuperare l'energia elettrica recuperando il moto oscillatorio del giroscopio. Quindi questo vostro giroscopio intanto è a bordo di una specie di grande galleggiante, giusto? Esatto, che esatto. Segue naturalmente, quindi continuando a oscillare, il moto ondoso. All'interno c'è questa specie di trottola che invece tende a rimanere verticale. Voi sfruttate sostanzialmente, riuscite a convertire queste forze. Con quale resa energetica? Allora, diciamo che la resa energetica è intorno al 30-35% rispetto all'energia della risorsa, ma questo è un rendimento abbastanza elevato, sì, ma grazie proprio al giroscopio noi riusciamo a sintonizzare il nostro device sulle lunghezze d'onde che cambiano, aumentando o diminuendo la velocità del giroscopio. Quindi non lavoriamo solo su un'onda di progetto specifica dove si hanno altissimi rendimenti, ma appena poi si esce, sì, i rendimenti si abbassano. Ma riusciamo a adeguare il nostro sistema, quindi aumentandone poi, certo, il rendimento su diverse ampiezze d'onda. Che è quel problema che dicevo all'inizio, cioè il fatto, esatto, che appunto le onde sono tutt'altro che degli standard e quindi si vogliono delle architetture flessibili perché producano effettivamente energia nelle condizioni reali. 30-40% teorico, diciamolo, perché va ancora messa alla prova sul campo questa vostra idea. E a proposito, ecco, qual è il campo di applicazione più probabile, insomma, dove si può posizionare questo tipo di apparato? Allora, il nostro device è studiato per essere posizionato all'interno del Mediterraneo. Abbiamo seguito questa filosofia sostanzialmente per tre motivazioni. La prima è che siamo italiani e abbiamo, sì, il Mediterraneo. Che qui stiamo, sì. Esatto. La seconda è che è un mare molto meno aggressivo rispetto all'oceano. C'è meno potenza di onda, ovviamente, però è più facile prototipare un sistema. Certo, c'è meno potenza ma anche meno fenomeni estremi che possono poi distruggere tutto, no? Esatto. E okay, poi come terza motivazione è perché non ci sono molti device sviluppati per il Mediterraneo, perché generalmente tutti gli altri finora hanno cercato in qualche modo di spostarsi dove l'energia delle onde era più forte, però cioè, avendo non sempre molta fortuna, certo, perché appunto coi problemi che dicevamo di robe, esatto, che vanno in pezzi. E anche voi state per andare in mare, giusto? Noi andremo in mare ad aprile del 2015, quindi a brevissimo, nell'isola di Pantelleria. Verrà installata la nostra prima macchina in scala 1-1, quindi una macchina reale. Ecco. Sì, d'accordo. E io spero che ci sentiremo tra un anno ancora, che non sia affondata, che abbia prodotto l'energia che vi aspettavate, insomma. Vabbè, io spero che ci sentiamo prima, se sono... Vabbè. Grazie Paolo Guerra. Grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.